presenta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, in diretta come ampiamente annunciato anche dal GR24, dal workshop Ambrosetti che si tiene come ogni anno a Cernobbio. Come sempre il venerdì è la giornata dedicata agli incontri di carattere più internazionale, si è parlato anche molto di sicurezza e domani ci si concentrerà sulla parte europea e di politica italiana, perché saranno presenti molti commissari europei, ma anche il atteso intervento del Premier Gentiloni nel pomeriggio, e poi parte tutta italiana domenica mattina, quando vi sarà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione anche del Presidente di Confindustria Boccia, oltre che di vari ministri del governo Gentiloni, in un giorno in cui, devo dire, tutta la settimana che commentiamo dati di questo genere, in cui è arrivata una conferma dell'Istat dove il secondo trimestre dell'anno ha segnato una crescita dell'economia dello 0,4%, rispetto all'anno prima fa più 1,5%, ma la cosa più importante è il fatto che la crescita acquisita, poi lo rispiegheremo, ossia la crescita già portata a casa come PIL anche se i prossimi trimestri fossero a zero, ebbene la crescita acquisita è dell'1,2%. Perché è importante? Perché siccome è praticamente impossibile che la crescita si fermi nei prossimi trimestri, questo vuol dire che non solo l'obiettivo dell'1,2% è già stato raggiunto, ma che probabilmente, stando alle stime oggi diffuse anche dall'Istat, si può arrivare a un 1,5% come dato complessivo del 2017. Se fosse così, questo ci porterebbe più vicini alla media europea, che oscilla tra l'1,7% e l'1,8% di crescita dell'area euro, e sarebbe questo sì un grosso risultato, perché noi da anni scontiamo una crescita, anche quando è bassa, più bassa della media dell'area euro. Su questo è intervenuto il Premier Gentiloni, che infatti ha parlato di buoni segnali economici, augurandoci nuove risorse per povertà ed esclusione sociale. Da questo punto di vista, visto che le dichiarazioni di Gentiloni sono arrivate al termine della sua visita al centro della Caritas a Roma, ha confermato che nella prossima legge di bilancio, quella che si inizierà a discutere tra poche settimane, si cercherà di attuare interventi ancora più forti sulla lotta alla povertà. Senza l'impegno delle persone e anche delle imprese che dedicano una parte del loro tempo o una parte dei loro profitti a sostenere i poveri, non c'è misura pubblica da sola che possa risolvere le questioni. Quindi noi cercheremo anche con le prossime misure di bilancio di fare dei passi ulteriori, ma contemporaneamente dobbiamo dare come italiani un riconoscimento, perché chi aiuta i poveri e gli esclusi deve avere la gratitudine di tutti gli italiani. Così appunto il Premier Gentiloni, ne parleremo più avanti, anche perché avremo alcuni ospiti come sempre in questa diretta dal workshop Ambrosetti, e come sempre partiremo dal sondaggio annuale di Radio Cori sulle 24 ore che ha intervistato gli operatori economici e finanziari per capire che cosa si attendono per il prossimo anno sostanzialmente. Questo sarà importante anche perché va a inserirsi nei dati che abbiamo avuto martedì su fiducia di consumatori e imprese il livello più alto dal pre-crisi. Devo dire che oggi c'è un altro indice, quello dell'attività del settore manifatturiero in Italia, che aggiorna i massimi non da prima della crisi ma dal febbraio del 2011, a 56,3 punti. Se chiaramente le condizioni meteo, forse entra un po' di vento nel microfono, ce lo consentono, noi andiamo avanti. Si sta scatenando forse un uragano qui ed è bello avere gli studi all'aperto. Allora, andiamo sull'economia internazionale. 165.000 posti di lavoro creati negli Stati Uniti, la disoccupazione però sale al 4,4%, perché i dati sono leggermente peggiori delle attese, dal 4,3% di luglio. È un dato che stride con quello di due giorni fa, in cui l'andamento del PIL americano era cresciuto come mai prima, da trimestre a trimestre, con una crescita del 3%. Andando invece all'Europa, oggi proprio da Cernobbio il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Victor Constancio, ha detto che la fase di ritorno all'inflazione, aggiungo io, buona, che sembrava probabile inizio anno a livello globale, non si è ancora materializzata. E quindi, perché è importante questa dichiarazione? Perché noi sappiamo che la BCE non toccherà tassi di interesse e con ogni probabilità non metterà fine o non farà il cosiddetto tapering, cioè la riduzione dell'acquisto di titoli di Stato attraverso il quantitative easing, finché non vedrà un'inflazione dell'area euro accettabile. Constancio ha detto la ripresa è più ampia e consolidata, ma non siamo ancora ai livelli di inflazione che possiamo ritenere accettabili. E al di là dei temi Istat e i temi sulla crescita economica, faccio notare che oggi è partito il conto alla rovescia per la presentazione dei piani di razionalizzazione, qui veniamo all'Italia, delle partecipate pubbliche escluse le quotate. Entro il 30 settembre, come previsto dalla riforma DIA, le amministrazioni, in primis gli enti locali, sono tenute una ricognizione per individuare le partecipate da eliminare in base appunto ai criteri della riforma Madia. I ritardatari andranno incontro a sanzioni, quindi gli enti locali ritardatari andranno incontro a sanzioni pecuniarie o alla perdita dei diritti sulla società. Ricordo che in questo momento in questo paese ci sono 8.893 società pubbliche partecipate, di cui 7.230 attive. Nel 2000 erano meno di 4.000, non di rado sono quasi 1.500 quelle che sono scatole vuote. I dipendenti delle partecipate sfiorano ormai 784.000. Ricordo anche che l'ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, il nostro ospite anche a luglio, stimava un risparmio potenziale di 2 miliardi di euro da una razionalizzazione delle partecipate, e individuava in 1.000 le partecipate realmente necessarie. E sarà la direzione, l'ottava direzione del Dipartimento del Tesoro, la struttura competente per il controllo e il monitoraggio del riordino delle partecipazioni pubbliche previsto dalla riforma Madia, e quindi verrà fatto anche un controllo a campione. E quindi gli uffici a cui è affidata la competenza appunto sono due uffici del Dipartimento del Tesoro. Altro tema di cui ci occuperemo riguarda invece l'ATAC. Oggi, essendo in diretta da Cernobbio, non avremo una poco invidiabile classifica di Focus Economia, tornerà venerdì prossimo. L'ATAC, ahimè, da sempre è una delle grandi protagoniste della nostra classifica. Ma dicevo, oggi è avvenuto quanto aveva in qualche modo pronosticato l'ex numero uno direttore generale Rota, che poi si è dimesso. Il consiglio di amministrazione di ATAC ha chiesto il concordato preventivo per salvare l'azienda. Ha individuato infatti nella procedura di concordato preventivo la migliore soluzione alla crisi della società. L'ATAC deve restare pubblica, ha aggiunto poi il sindaco Virginia Raggi, dopo il via libera appunto del consiglio di amministrazione alla procedura di concordato preventivo. Deve rimanere pubblica, deve rimanere di noi tutti. Finalmente adesso inizia una nuova era per l'ATAC, con un rinnovamento totale dell'azienda. E anche il presidente, il neopresidente e amministratore delegato di ATAC, Paolo Simoni, ha detto: abbiamo compiuto un primo passo concreto per il risanamento della società. Ricordo che l'ATAC, al di là di tutto quello che abbiamo raccontato sul ruolo dei sindacati, sul tasso di assenteismo, sui tassi di produttività, cioè di ore guidate dagli autisti, sono sotto ogni media, e tante altre amenità, l'ATAC complessivamente ha 1.300.000 euro di debito, 12.000 dipendenti e quasi 500 milioni di debito solo con il comune di Roma, e ha bruciato negli ultimi 5 anni 4,5 miliardi che erano arrivati in parte dal comune e in parte dalla regione. Allora, dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui la Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo sulla vigilanza della Banca d'Italia nata da un memoriale di Pietro Dagui, ex manager della banca intermobiliare controllata da Veneto Banca, e indagine affidata dal procuratore Pignatone ai sostituti titolari dell'indagine, già titolari dell'indagine su Veneto Banca. È arrivata oggi una nota di Palazzo Chigi che smentisce ogni ipotesi di collegamento tra l'esposto del dottor Dagui e presunte valutazioni da parte del governo sui vertici della Banca d'Italia. Il governo, per voce del stesso Presidente del Consiglio, conferma la propria incondizionata fiducia alla Banca d'Italia. E invece la Consob ha multato con 4 diverse delibere per varie violazioni, che alcune riguardano anche i prospetti informativi, ha multato gli ex vertici della Banca Popolare dell'Etruria per complessivi 2.760.000 euro, inclusi tra le persone multate l'ex presidente Giuseppe Fornasari e Pierluigi Boschi, ex vicepresidente della Popolare, padre del sottosegretario del Presidente del Consiglio Mariana Boschi, che ha ricevuto nel complesso sanzioni per 120.000 euro. Adesso, prima di ascoltare gli scenari economici del sondaggio di Radio Core, l'aggiornamento di borsa più 1% in questo momento Milano, che anche oggi è assolutamente in linea con Parigi e Francoforte, più 1% Parigi, più 1% Francoforte, Londra più debole più 0,26%, Dow Jones più 0,30%. L'euro su dollaro si mantiene sotto quota 1,20, anche sotto quota 1,19, 1,18,70. Molto bene Fiat Chrysler più 5,80, UbiBanca più 2%, Brembo più 1,80, Comunipol SAI, Biper più 1,70, Unicredit più 1,5, Exor più 1,40, come Moncler, A2A più 1,40, Banco BPM più 1,20%, come Ferrari. Fronte opposto invece Telecom Italia meno 1,12, IUX Net-a-Porter meno 0,90%, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo col primo tema, e quindi la 43esima edizione del Workshop Ambrosetti è sempre l'occasione per il sondaggio di Radio Core sulle 24 ore con gli operatori economico-finanziari. Sì, perché oltre al Presidente del Consiglio Gentiloni e ben 7 ministri del governo che interverranno in questi prossimi 2 giorni, mi riferisco a Piercarlo Padoan, Carlo Calenda, Angelino Alfano, Giuliano Poletti, Andrea Orlando, Valeria Fedeli, Claudio De Vincenti e poi la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Mariana Boschi, vi saranno anche il leader dell'opposizione, il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio, il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, il Presidente di Confindustria appunto Vincenzo Boccia e domani molti commissari europei, tra cui il negoziatore della Brexit per conto dell'Europa Michel Barnier, ma anche il commissario agli affari economici Pierre Moscovici e la commissaria alla concorrenza Margaret Vestager. E Rome Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, e appunto oggi ha parlato già Victor Constanzio della Banca Centrale Europea. Gli Stati Uniti saranno rappresentati, oltre che dai senatori John McCain e Lindsey Graham, anche dal capo dell'intelligence dell'amministrazione Trump, che, visto che uno dei temi di questa giornata, di queste 3 giorni di lavoro, riguarda proprio la sicurezza a livello globale. Vi sarà anche un bilaterale Italia-Russia a margine del forum, e il ministro Alfano vedrà il vice presidente russo con un drappello di imprenditori. Ora, continuando con questa metafora meteorologica, le nubi si sono un po' diradate, è arrivato il sereno. Vorrei capire, parlare di sereno nell'economia è sempre molto rischioso, parlerei di una situazione variabile tendente al sereno, spero che non vi siano rischi di piovaschi, come si dice in genere. Però il Radio Core Sole 24 Ore, come ogni anno, ha condotto un sondaggio con tantissimi operatori e operatori di carattere economico finanziario. Ce lo racconta la collega Eleonora Micheli, che una volta tanto non è in collegamento per la borsa ma è qui di fronte a me. Buonasera Eleonora. Buonasera, sì, hai ragione, Ovviamente al netto di eventuali effetti shock, gli operatori ritengono che nei prossimi 6 mesi, ad esempio, le borse europee continueranno a correre o quantomeno difenderanno le posizioni. Se andiamo un po' nel dettaglio, il 43% degli intervistati prevede rialzi intorno al 3-10% per le borse europee, il 40% indici stabili. Solo il 17% prevede cali comunque contenuti inferiori al 10%, nessun operatore mette in conto invece ribassi superiori. Questo è un cambiamento, allora, c'era un miglioramento leggero in corso anche l'anno scorso, mi sembra una modifica più forte nell'orientamento rispetto anche ai sondaggi che voi ogni anno effettuate, quindi hanno un valore anche di benchmark. Sì, del resto sta migliorando anche l'economia europea, preoccupa un po' ovviamente il super euro, d'altra parte abbiamo fatto un'intervista anche a questo proposito e per il 55% degli intervistati il super euro non rappresenta un problema, non peserà sulla ripresa dell'economia europea e comunque il 40% degli operatori tra l'altro ritiene che l'euro tutto sommato frenerà la corsa, solamente una minima parte invece ritiene che potrebbe registrare un ulteriore rafforzamento nei confronti del dollaro. Infine uno sguardo anche allo spread, per il 53% degli operatori, oltre la metà quindi degli operatori, il differenziale dovrebbe rimanere stabile, il differenziale ricordiamo tra BTP italiani e tedeschi a 10 anni tra i 150 e i 175 punti, solamente una minima percentuale prevede esattamente il 7%, uno sforamento oltre quota a 200 punti, quindi a sentir gli operatori tutto sommato nei prossimi mesi, nel prossimo semestre, sui mercati finanziari almeno dovrebbe splendere il sole. Ecco, sì, ma aggiungiamo anche splendere il sole 24 ore, così facciamo anche un po' di pubblicità. Sì, io sono sempre molto cauto, se non vuol dire che faccio gesti scaramantici, ma insomma dopo 10 anni di crisi uno neanche ben d'onde, però è innegabile, come ricordavamo in apertura, che i dati congiunturali siano tutti in miglioramento, non un miglioramento sufficiente, lo dico a chi già ci scrive su questo. Poi di quello che potrebbe andare storto, ossia in questo momento, come tu anche ricordavi, sono soprattutto le variabili di carattere internazionale, parleremo nella seconda ora del programma con la Presidente dell'ENI, Emma Marcegaglia, per lo scenario di carattere internazionale e le variabili anche di carattere energetico. Intanto nel ringraziare Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 ore, non vuoi fare anche la borsa oggi? No, niente, non vuole. La faremo dopo con i tuoi colleghi in redazione da Milano. Vorrei farvi ascoltare alcuni dei commenti che la nostra Anna Marino ha raccolto in questa giornata, in questa prima giornata, proprio sul dato sul PIL. E partiamo dal presidente di Intesa San Paolo, Gianmaria Gross Pietro. C'è sicuramente una componente congiunturale che riguarda tutta l'Europa e gran parte delle economie internazionali. C'è anche, a mio modo di vedere, una componente strutturale, e cioè il fatto che noi abbiamo ridotto la distanza rispetto al tasso di crescita europeo. Non dimentichiamo che sono 20 anni che noi siamo al di sotto del tasso di crescita europeo e ci sono stati dei momenti in cui eravamo molto al di sotto della metà del tasso di crescita europeo. Adesso siamo nettamente al di sopra, 1,5 contro 2,2. Quindi c'è questa componente strutturale che è anche avvalorata dal fatto che sono ripartiti gli investimenti. Gli investimenti sono anch'essi una variabile che varia nel tempo, fluttuante, e però determinano effetti strutturali perché gli investimenti aumentano la competitività del paese. Così appunto il presidente del gruppo Intesa San Paolo, sempre al microfono della nostra Anna Marino, è stato raggiunto anche il numero uno delle generali, Philippe Nonet, sempre sui dati diffusi oggi in merito al PIL, crescita acquisita all'1,2% e una crescita dello 0,4% sul trimestre, dice Nonet, la ripresa va consolidata, occorre proseguire sulle riforme. Quello che vedo sono segnali di ripresa economica in Italia, secondo me non sono ancora sufficienti, bisogna consolidare questa ripresa e quindi bisogna perseguire sulla strada delle riforme e secondo me il più importante è il risparmio sulle spese pubbliche, la riduzione delle tasse. Però c'è qualcosa di molto importante che sta succedendo qui a Cernobbio, nel Forum Ambrosetti, questa idea che per rendere sostenibile la ripresa bisogna investire sulle persone e sull'educazione delle persone. E questo mi sembra il messaggio più forte e più importante oggi. Altri temi, poi torneremo sul dato della crescita economica, che chiaramente sarà l'oggetto più commentato in questi giorni, ripeto, vista la forte presenza del governo e dell'opposizione, Salvini, Di Maio, e oggettivamente visto un fine agosto e un inizio settembre con dati che hanno sorpreso molti osservatori, tant'è che tutti hanno dovuto rivedere verso l'alto una volta tanto, può capitare, le previsioni. Dicevo, entriamo su altri temi che poi ci accompagneranno al commento di borsa, perché l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace, sempre a microfono la nostra staccano Fanna Marino, ha negato, diciamo, un interesse sul team, dicendo: guardate che noi siamo molto concentrati a cablare l'Italia. Tutte le altre combinazioni, si era parlato di Sparkle e quant'altro, il progetto di rete unica con TIM soprattutto, all'Enel non interessano. No, per il film non è futuro, è presente, cioè è una cosa che è in corso, continuiamo a lavorare molto bene, abbiamo aperto adesso altre 80 città, quindi i cablaggi continuano, business as usual, diciamo Open Fiber. Cioè, è difficile considerarla ormai una novità, è una cosa che va avanti, cresce bene, siamo molto soddisfatti. E con la tempistica? Allora, i cablaggi delle città iniziate l'anno scorso, diciamo, finiranno più o meno tutti entro quest'anno. Vi ricordo le 13 grandi città. Intanto abbiamo fatto partire altre città, quindi queste continueranno. Il grosso dei cablaggi lo dovrete vedere completato tra il 2018 e il 2019 e poi rimarranno le code, qualcuno ancora un po' più indietro, ma diciamo, il grosso del lavoro tra il 2018 e il 2019 dovrebbe essere fatto. Che ritorno ci si aspetta dall'operazione Open Fiber? Noi, come ritorni economici intende, abbiamo sempre detto abbiamo un ritorno su questo progetto di intorno al 10-11%. Noi siamo totalmente focalizzati a Open Fiber e a cablare l'Italia, tutto il resto per noi non ci interessa. Così appunto il numero uno di Enel, poi torneremo anche, visto che molti ci chiedono maggiori dettagli sulle varie percentuali, torneremo anche sui sondaggi, sul sondaggio principale della giornata che è quello di Radio Core, vi abbiamo dato un'anticipazione con Leonora Micheli, adesso però c'è il meteo, la pubblicità, la borsa e poi ritorniamo sui temi di questa giornata economico-finanziaria, anche su quelli emersi da Workshop Ambrosetti, 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da CrefoZert e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta da Workshop Ambrosetti di Cernobbio, no, sorrido perché ogni tanto arriva delle folate di vento, rischia di venire giù tutto lo studio, speriamo di no, andiamo avanti, almeno fateci fare la borsa. E poi torniamo sui temi di questa giornata, sugli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, compreso l'approfondimento sull'ATAC dopo la richiesta del concordato preventivo, più 0,80% Milano, dicevamo con Parigi più 0,80, Francoforte più 0,70, Dow Jones più 0,20, Londra più 0,30%, molto bene oggi Fiat Chrysler più 5,45% e bene anche Brembo più 1,91%. È diciamo, evidente però lo stacco di Fiat Chrysler rispetto al resto del listino, perché dopo Brembo c'è Unipulsai più 1,70, Ubi più 1,60, A2A più 1,5. E da qui vorrei partire con Ceo Condi di Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. E qui sono i dati francesi sull'immatricolazione e alle 18, immatricolazioni auto, alle 18 tra poco quindi usciranno anche quelli italiani. Sì, sicuramente Fiat è spinta da un ottimo progresso in Francia, ma anche poi dall'intervento che è arrivato nel pomeriggio da parte di Standard & Poor's, che ha portato l'outlook, cioè le prospettive del rating di Fiat Chrysler a positive, quindi si potrebbe andare nel medio termine verso un miglioramento della valutazione dell'agenzia di rating per quanto riguarda Fiat. Da quel momento il titolo ha accelerato al rialzo, ha chiuso sui nuovi massimi storici, come dicevi tu, oltre quota 13 euro. Ricordiamo anche che oggi Fiat ha superato la soglia dei 20 miliardi di capitalizzazione a Piazza Affari, che è appunto una soglia non solo diciamo, di valore, ma anche una soglia psicologica. Brembo si muove per converso? Sì, diciamo che è legato sicuramente al settore delle quattro ruote, settore delle quattro ruote che oggi è stato uno dei migliori in tutta Europa. Anche Peugeot a Parigi ha guadagnato oltre il 3%, quindi sicuramente Brembo diciamo, si accoda, pur essendo comunque un titolo che diciamo, ha dato grandissime soddisfazioni a chi ce l'ha avuto negli ultimi anni. Abbiamo ascoltato prima della pausa le parole del numero uno dell'Enel e quindi riferite all'ipotesi di un ingresso di Enel, l'ipotesi che era circolata soprattutto via stampa, va detto, nel rete unica con TIM, e Francesco Starace l'ha di fatto assolutamente negata, e lo dico per andare al commento sul titolo Telecom Italia invece. Sì, diciamo che Telecom Italia ancora una volta paga questa situazione un po' di impasse che c'è. Oggi è il peggior titolo del FTSE MIB, perde l'1,2%, c'è Vivendi che come sappiamo ha una quota molto importante del capitale, azionista con quasi il 25%, Vivendi dice di non avere alcun controllo di fatto, al tempo stesso invece il governo sta verificando se può usare questa famosa Golden Power che permetterebbe di fatto a Vivendi di non esercitare un ruolo di controllo, insomma ne nasce una situazione di forte incertezza sul governo della società e il titolo continua a pagare come vediamo in borsa. Oggi è sceso, a proposito di soglie psicologiche, sotto gli 0,8 euro. Ecco, su questo fronte, oltre a Telecom, abbiamo visto un po' di debolezza su Yoox Net-a-Porter, meno 1,1%, Saipem meno 1%, Mediaset più 0,77%, così do anche il resto del listino. C'era stata un po' di pressione perché anche Tenaris fa meno 0,45 sui petroliferi, che però non ha coinvolto Eni, e invece tornando alla parte alta intesa come la parte che cresce, di nuovo in evidenza oltre a Biperbanca più 1,30 come Banco BPM, Unipulsai più 1,70 come UbiBanca e A2A più 1,5, dicevo in evidenza anche il lusso. Sì, diciamo che il lusso ha una serie positiva di diverse sedute, tutto è partito dalla semestrale molto positiva di Brunello Cucinelli, che comunque non è quotata sul listino principale, ma comunque diciamo, sono arrivate indicazioni importanti e positive, e la stessa Brunello Cucinelli ha chiuso l'accordo per il famoso patent box, che diciamo che sostanzialmente permette alle alcune società del lusso di detassare parte dei profitti. Moncler è in attesa di un accordo anch'essa sul patent box, infatti oggi gli operatori scommettono su un buon esito di questa vicenda, visto che aumenta dell'1,3% in chiusura. Andiamo anche sui migliori e peggiori della seduta: Clabo più 11,80, Neurosoft più 10,30, Caltagirone Editore più 9,60, KR Energy più 8,90%, fronte opposto Novare meno 37,70, Gruppo Green Power meno 6,80, Stefanel meno 4% come Tribù. Per quello che riguarda, alcuni mi chiedono di Eni non ha chiuso in negativo, ha chiuso con un rialzo dell'1%, come Enel, visto che sentivamo Strage prima più 1,1%. L'ultimo commento lo chiedo su ST Microelectronics, più 1,20%, ma non solo per l'andamento di borsa, quanto perché si fa un ragionamento di scenario su ST. Sì, c'è una scommessa un po' a livello europeo sull'high tech, anche perché c'è forte attesa per la presentazione del nuovo iPhone 8 che avverrà a settembre, quindi sale tutto il settore, anche infine una Francoforte ha guadagnato oltre il 2%, peraltro ST dovrebbe essere il fornitore molto probabilmente di una delle parti del nuovo iPhone 8, quindi è chiaro che diciamo in questo momento il mercato si concentra molto su questo titolo. Allora, grazie anche grazie a Ceo Conni, a Radio Cori, Sole 24 Ore, e noi andiamo avanti con le notizie di questa giornata, perché sempre all'interno di borsa, all'interno dei temi di borsa, scusatemi, ha parlato il numero uno delle generali, Philippe Donnet. Prima l'abbiamo ascoltato sullo scenario, diciamo, sugli ultimi dati di crescita del PIL. In questo caso ha parlato proprio degli asset strategici e degli asset non strategici delle generali, specificando che il processo di vendita delle partecipazioni non strategiche sta andando bene e le generali si attendono almeno 1 miliardo dalla cessione di queste partecipazioni considerate non strategiche. Il processo di vendita di queste società sta procedendo bene, c'è molto interesse per i nostri assets e quindi lo ribadisco, sono molto fiducioso nella nostra capacità a raggiungere almeno questo miliardo come proventi di queste vendite. E quindi 1 miliardo per le generali dalla cessione degli asset considerati non strategici. Oggi tra i vari temi toccati ci sono molti temi, ripeto, anche di sicurezza, ma che non rientrano in maniera precipua nel nostro programma. Ce n'è uno invece che ha fatto un po' discutere, perché è stato presentato, discutere non in senso negativo, ma discutere come dibattito, è stato presentato uno studio fatto sia da Workshop Ambrosetti di European House che dal gruppo Ferrovie dello Stato, in cui si stimano possibili risparmi complessivi fino a 16 miliardi e mezzo all'anno, stiamo parlando quasi di una manovra finanziaria, un punto percentuale di PIL, con trasporti urbani più efficienti. Visto che tra poco commenteremo il concordato preventivo dell'ATAC, vorrei capire come si è arrivati a questa cifra con non chi ha curato materialmente lo studio, ma chi l'ha presentato, e mi riferisco all'amministratore delegato e direttore generale dell'FS Renato Mazzoncini. Buonasera. Buonasera a tutti e bentornato. Grazie. Poi parliamo anche di Olanda e dell'avanzamento dei vari progetti in Italia, però voi, se ho ben capito, stimate che se l'Italia portasse i tempi, dimezzasse i tempi di spostamento, quindi trasporto pubblico urbano più efficiente, in linea con quelli di principali paesi europei, già solo così si arriverebbe a un risparmio tra i 5 miliardi e mezzo ai 7 miliardi e addirittura se li allineassimo a quelli della Germania altri 4 miliardi e 400 milioni di euro. Come si arriva a un calcolo del genere? È un calcolo che è stato fatto da Ambrosetti, a cui abbiamo commissionato questo studio, fondamentalmente perché siccome Ferrovia all'interno del proprio piano industriale sta entrando all'interno del mondo della mobilità urbana, vogliamo cercare di capire quali sono i benefici che possiamo portare al nostro paese. Di fatto il punto che credo che sia abbastanza evidente a tutti, visto e su cui ci sono stati anche molti studi in passato, è che gli spostamenti alla nostra città sono più lenti. Basti pensare che abbiamo 234 chilometri di linee metropolitane in tutta Italia messe insieme, quindi da Torino, Milano, Genova, Brescia, Roma, Napoli, quando solo Madrid ha 290 chilometri, il che vuol dire che ci spostiamo più lentamente. Le città sono congestionate, gli autobus si muovono in gran parte in coda con le automobili e tutto questo genera dei costi, che sono il tempo che viene consumato, che con dei criteri, dei KPI che ha utilizzato Ambrosetti sono trasformati in valori economici, costi ambientali che poi si traducono in costi per la salute, costi per migliorare il livello di inquinamento e tutto quello che voglio dire che è abbastanza noto, visto che poi in letteratura di questo c'è molto. Certo. E anticipo la battuta che so che mi faranno gli ascoltatori. Voi ieri avete acquistato, avete annunciato l'acquisto, il pieno acquisto dell'olandese K-Buzz, un'operazione che non è enorme dal punto di vista finanziario, sono 30 milioni di euro, però si tratta del terzo operatore di trasporto pubblico locale in Olanda e serve le aree di Utrecht e Groningen e Drete. Ora, la battuta potrebbe essere, l'avete fatto attraverso la vostra controllata Bus Italia, ma non è che vi stiate appassionando troppo al trasporto locale e state dimenticando il trasporto nazionale? Cioè, la vostra missione in questo momento, nella vostra missione, quant'è la quota, diciamo, di importanza e di rilevanza che date al trasporto locale e quanto quella che è la vocazione originaria dell'FS e quindi la rete ferroviaria e l'infrastruttura, il dorso infrastrutturale di carattere nazionale? Però. Ma ti risponderei con una battuta. Stiamo lavorando per far partire a Politecnico un nuovo esame che si chiama Ingegneria della Mobilità, Mobility Infrastructure and Services. Il concetto di trasporto solo ferroviario o solo urbano, metropolitano, gomma ferro è abbastanza superato. Il nostro cliente è un cliente della mobilità, quindi noi, se vogliamo dargli un servizio, dobbiamo occuparci di tutto. Dopodiché posso dire che per quanto riguarda la grande infrastruttura nazionale, noi dobbiamo completare un paio di cose che sono i collegamenti con l'Europa, quindi trafori, il Brennero, la Torino-Lione, completare il terzo valico sul corridoio tra Genova e Rotterdam e il sud, quindi la Roma-Napoli e le infrastrutture verso Reggio Calabria e la Sicilia. Quindi completare questa grossa rete. Dopodiché dobbiamo, e sono cose che stiamo facendo come certamente sai, dobbiamo sostituire i treni regionali. Abbiamo oggi la più grande flotta in termini di anzianità d'Europa per quanto riguarda i treni di lunga percorrenza. Abbiamo lanciato una sostituzione gigantesca di treni regionali, più del 50% di treni sostituiti entro il 2021-22, con 5 miliardi di investimento, quindi su questo stiamo lavorando. Dopodiché c'è però il tema del trasporto pubblico locale. La maggior parte della gente non si sposta intercity, ma si sposta dentro le città, e questo è il tema dello studio. Cioè, alla fine, se tu porti velocemente in 45 minuti tra Milano e Torino o in 29 minuti tra Brescia e Milano e poi per fare gli ultimi spostamenti questo ci mette più di altrettanto, il rischio è che continui a prendere l'automobile. Quindi bisogna velocizzare gli spostamenti nelle città, e ormai è evidente che la gente si sta spostando sempre più a vivere nelle città metropolitane, in Italia come all'estero. Il livello di mobilità, lo dimostra studio Ambrosetti, cresce, e noi non ci stiamo andando dietro in termini di infrastrutture. Quindi la domanda che io mi pongo è: ma perché non crescono le infrastrutture dentro le città e invece noi abbiamo continuato a farle crescere nel paese? Forse se ci occupiamo un po' anche delle infrastrutture all'interno delle città diamo un servizio al paese. Allora, dopo il traffico e la pubblicità, vorrei capire però quanto questo non rischi di porvi, non dico in conflitto, ma in attrito con gli enti locali, perché il trasporto locale è... Prima raccontavamo del decreto Madia, di quello che il governo sta facendo per fare il check su chi, sulle partecipate da mantenere, ma insomma lì il trasporto locale di pertenenza degli enti locali, e vorrei capire quanto alto è il rischio che vi vedano come, non dico un elefante in una cristalleria, ma comunque come un intruso che inizia a occuparsi di temi che invece solo il sindaco o la regione, diciamo, conosce e ritiene di pertinenza propria. Le chiedo ancora un minuto di pazienza dopo il traffico. 349-238-6666 per sms WhatsApp. Traffico sulle quattro ruote. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Da 7:50 minuti di nuovo in diretta qui da Cernobbio, workshop Ambrosetti. Allora, il numero uno delle Ferrovie dello Stato. La domanda è chiara, insomma, non rischiate di creare tensione, di venire percepiti come secondo me... il grosso che entra o l'elefante o comunque qualcuno che si occupa di cose che non sono di sua pertinenza? No, secondo me è esattamente il contrario, anche perché gli enti locali non hanno come vocazione di fare gli imprenditori, hanno come vocazione di fare i regolatori, quindi quello che prevede anche la norma europea. C'è una norma del 2007, la 1370, che dice che devono fare le gare per il trasporto pubblico per comprare per i loro cittadini il miglior servizio possibile. Il problema è che in Italia, rispetto alla Germania, alla Inghilterra o alla Francia, non ci sono grossi player nazionali che partecipano a queste gare, che quindi sono in grado di portare economie di scala e quant'altro. Tanto è vero che anche in Italia sono arrivati il gruppo arriva di Deutsche Bahn, sono arrivate la RATP di Parigi e quant'altro. Bus Italia, che è la nostra partecipata sul trasporto gomma, si propone di essere il player nazionale che partecipa a queste gare. Tutte le gare che abbiamo, a cui abbiamo partecipato e che abbiamo vinto fino ad oggi, le abbiamo vinte con investimenti enormi sul parco mezzi che i cittadini dei comuni che hanno mandato a gare il servizio potranno rivendicare nei prossimi anni. Rapidamente con lei, quando l'abbiamo ospite, facciamo sempre un check, diciamo, dei lavori in corso, mettiamola così. L'alta velocità nella tratta Milano-Venezia, che poi diventa alta capacità da Venezia-Trieste, a che punto è? L'alta velocità, dei tempi così. Vabbè, diciamo adesso la coda fondamentale è che abbiamo risolto il nodo di Brescia, cioè la decisione se passare attraverso la città oppure fare uno shunt, la decisione di passare dritti dentro la città, e quindi abbiamo chiuso l'accordo per l'appalto della Brescia-Verona, che quindi incomincia entro la fine di quest'anno, aprono i cantieri. Entro l'inizio dell'anno prossimo chiudiamo il contratto per la Verona-Vicenza. Teniamo conto che la Padova-Mestre è già realizzata. Quindi rimane poi. Stiamo parlando realisticamente di 6 anni di tempo per realizzarla. L'alta velocità al sud, perché sappiamo che si arriva fino a Salerno, però c'era tutta l'ipotesi di alta capacità, non necessariamente alta velocità, tra Roma verso la dorsale adriatica. Diciamo cose importanti, che abbiamo fatto partire due frecce, una freccia diretta tra Bari e Roma che ci mette 3 ore e 34 con l'attuale linea, e già è un gran successo, tanto è vero che il servizio sta andando molto bene, e un altro, un servizio diretto Reggio Calabria-Roma in 4 ore sulla linea attuale. Questo dimostra che per riuscire a ridurre i tempi non è necessario costruire necessariamente linee alta velocità, possiamo andare anche sull'alta capacità, che sono 200 km all'ora. Quindi ma progetti... che motrici utilizzate in queste tratte? Queste sono proprio gli ETR 500, quello della Freccia Rossa. Assolutamente, perché sono treni politensione che hanno il vantaggio che possono andare sia sulle linee alta velocità che sulle linee storiche, diciamo a 3000 volte. Quindi diciamo che il lavoro grosso che ora dobbiamo fare è la realizzazione della Napoli-Bari, che su cui abbiamo appaltato i primi due cantieri e che sarà pronta anche questa nel giro di 6-7 anni, e che porterà a 3 ore il collegamento, anche meno di 3 ore il collegamento tra Napoli-Bari, e poi la velocizzazione a 200 km orari del collegamento con Reggio Calabria. Nel frattempo abbiamo fatto partire gli investimenti in Sicilia, quindi il triangolo Messina Catania-Palermo, su cui sono previsti i grossi investimenti, e stiamo andando avanti. E questo per quello che riguarda il completamento della T, ma non solo, perché non è solo la T, è anche il collegamento a Roma, diciamo, verso Bari da parte pugliese. Mi arrivano molti messaggi sul trasporto invece di carattere locale, fermo restando, qui lo anticipo io, che questo prevede un accordo con le regioni di volta in volta, non è una decisione... Sì, però siamo a buon punto, nel senso che il grosso cambiamento che abbiamo di fronte e che incominceranno i nostri clienti a sentir raccontato da ottobre è che abbiamo proposto alle regioni, in cambio di contratti lunghi per i prossimi 10 anni, di fare noi gli investimenti sui treni nuovi. 5 miliardi di investimenti, 50% della flotta rinnovata, i primi treni iniziano ad arrivare il 1 gennaio 2019 a un ritmo di 12 treni al mese. Cambieremo la faccia del trasporto pubblico locale nei prossimi 3-4 anni. E noi come sempre monitoreremo il vostro lavoro, nel senso che a parte che abbiamo anche un programma che si chiama Il Treno Va di Gianluca Nicoletti, che non si occupa di trasporto locale né di trasporto nazionale, ma utilizza il treno, lo dico così faccio un po' di promo, visto che riparte il palinsesto definitivo da lunedì, utilizza il treno come luogo sociale per raccontare delle storie, per narrare, e spero che un giorno si possa ascoltare anche sui vostri treni, su tutti i treni italiani, ma il Treno Va non ha preclusione di sorta. Grazie intanto all'amministratore delegato, sentite questo vento in cuffia, non è colpa nostra, ma grazie intanto all'amministratore delegato e direttore generale delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini. Andiamo verso il GR24, poi la richiesta di concordato preventivo per l'ATAC e di nuovo altri interventi sui dati di oggi di carattere macroeconomico, devo dire tutti positivi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Cruciani, dove sei? Cruciani, Parenzo, mi mancate, ho un bisogno urgente di nuove puntate. Sintomi, aggressività, sto diventando più aggressivo, umore basso, ho paura di andare verso la depressione, non riesco a dormire, sono insonne, sono stanco, non ho energie e penso che ingrasserò anche. Come devo fare? Ho il naso otturato, la gola intasata, ho fatica a respirare. Parenzo, Cruciani, vi voglio bene, dove siete? Tornate. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Radio 24, fra poco di nuovo in onda. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Focus Economia. Sei minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal workshop Ambrosetti qui a Cernobbio, Villa d'Este. Prima di passare, come anticipavo, a altri commenti sui dati economici, su quello che sta emergendo in questa prima giornata di lavori, restiamo sul trasporto locale, però per tutt'altra vicenda, non per l'interesse manifestato e che si sta anche in parte attuando delle Ferrovie dello Stato, come ricordava prima il numero uno Mazzoncini, ma per quello che è successo oggi a Roma. Il Consiglio di amministrazione di ATAC ha chiesto il concordato preventivo per salvare l'azienda. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dice che questo rappresenta il primo passo per un nuovo corso. L'azienda deve restare pubblica e sulla stessa riga anche l'amministratore delegato e il presidente di ATAC, Paolo Simoni, che ha detto: oggi abbiamo compiuto un primo passo concreto per il risanamento e il rilancio della società. Concordato che da più parti era stato evocato, ma è anche ipotizzato, ma che adesso diventa atto concreto. Per quello che riguarda il concordato, ne parliamo per capire che cosa questo poi comporti e perché si parli di un nuovo passo, di una svolta da parte dell'ATAC. Ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Manuela Perrone. Buonasera Manuela. Buonasera Sebastiano. Al di là, diciamo, dell'annuncio, questo che cosa comporterà? Perché sappiamo, l'abbiamo raccontato decine di volte, ripeto, al di là dei casi che entrano poi nella nostra poco invidiabile classifica del venerdì, che torna venerdì prossimo, ATAC ha 1.300.000.000 di debito pubblico, quasi 500.000.000 li ha solo con il Comune di Roma e negli ultimi 5 anni ha bruciato 4.500.000.000 di fondi arrivati da Comune e Regione. Che cosa cambia e che cosa succede adesso, Emanuela, con il concordato preventivo? Succede intanto che si deposita la richiesta ufficiale al Tribunale per l'accesso alla procedura fallimentare e il vantaggio immediato è il blocco delle azioni esecutive, cioè il blocco della richiesta delle richieste dei creditori che lo dobbiamo ricordare, nell'ultimo mese di fuoco sono già arrivate copiose, perché le richieste di decreti ingiuntivi che erano arrivate soltanto nella prima metà di agosto ammontavano già a 90 milioni. Quindi il primo vantaggio è quello di bloccare le azioni esecutive. Il secondo vantaggio è quello di accedere a una procedura sotto la stretta vigilanza del giudice, che è un vantaggio che potrebbe anche trasformarsi in un boomerang. Perché? Perché il tribunale dovrà valutare se è possibile un accordo con i creditori per un piano di rimborso dei crediti che sia spalmato su 5 anni. Un accordo che intanto appunto bisognerà vedere se sarà raggiunto. In questo caso però gioca a favore, diciamo, della scelta dell'amministrazione romana il fatto che il principale creditore al momento sembrerebbe proprio il Comune. Quindi l'accordo dovrebbe essere favorito a patto che si faccia chiarezza sui 1.500 creditori che sembrano ruotare intorno ad ATAC e che si faccia chiarezza. Tra l'altro, tutti la battuta, la battuta che l'ATAC ha più creditori che automezzi non è tanto una battuta, nel senso è chiaro che serve anche. A dare un'idea, perché ha 1410 veicoli effettivi, perché il parco automezzi teorico è di 1980 veicoli, ma ne possono circolare solo 1410 e i creditori sono di più, sono 1500. Esatto, è assolutamente così. Bisognerà fare molta chiarezza sui conti. Faccio presente che oggi si attendeva dal CDA anche l'approvazione del bilancio 2016, che ancora non c'è, quindi gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2015, perché in tribunale accanto al piano di ristrutturazione bisognerà anche presentare naturalmente dei conti che siano il più possibile chiari. A quel punto la parola, ma non subito, tra qualche mese, qualcuno ipotizzava addirittura un anno, passerà al tribunale, che nominerà il commissario, che poi dovrà verificare i pagamenti, quindi l'osservanza del piano concordato. Da questo punto di vista il professor Vincenzo De Sensi della LUISS, che abbiamo interpellato sul tema qualche giorno fa, ci diceva una cosa interessante, cioè che la vera difficoltà dei mesi futuri sarà quello di garantire il servizio, perché la formula scelta del concordato preventivo in continuità significa che parallelamente alla procedura bisogna garantire che il servizio funzioni, che il servizio sia attivo. Ora, con i numeri di ATAC e con l'autunno e l'inverno caldo che si prospetta, perché i sindacati sono già sul piede di guerra, annunciano scioperi e non sappiamo che cosa ci attenderà, e forse questa sarà la sfida più importante. Grazie, adesso vedremo, perché questo è chiaramente il primo passo formale, come tu ricordavi, poi ci sarà la verifica da parte del commissario. Grazie intanto grazie a Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Torniamo invece sul tema dello scenario economico, per come sta emergendo non tanto qui a Cernobbio, ma dai dati dell'Istat, e tutta la settimana che arrivano questi dati. Come promesso, visto che ce l'avete chiesto, la scheda dettagliata su quel che è emerso dal sondaggio annuale di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Qualcuno mi ha chiesto, mi chiede attraverso i messaggi, ma come. Che corrispondenza c'era stata? Devo dire una corrispondenza abbastanza alta negli anni scorsi. È chiaro che probabilmente chi viene a Cernobbio ha una visione leggermente più positiva, perché sono aziende di solito di successo che erano già presenti e molto presenti sui mercati internazionali, e quindi questo può creare una diversa percezione. Però al netto di questo, 3 anni fa, ricordo molto bene, c'era metà scetticismo e metà cauto ottimismo. L'anno scorso una leggera prevalenza di chi era cautamente ottimista, e quest'anno invece questa prevalenza si fa più significativa, in linea con quello che poi vediamo anche come dati diffusi dall'Istat e da Eurostat. Comunque, il sondaggio annuale di Radio Cora. A meno di imprevisti o mutamenti clamorosi nella psicologia degli investitori, la strada dei mercati finanziari per i prossimi mesi appare sgombra da rischi significativi, e gli indici dovrebbero dunque riuscire a far registrare nuovi rialzi o quantomeno difendere le posizioni acquisite. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Assium Forex in collaborazione con Radio Cor Plus. Nel complesso, il numero di quanti vedono i mercati stabili o in rialzo nel prossimo semestre è infatti pari all'83%, dato praticamente invariato rispetto al mese precedente, 84%, ma in miglioramento per quanto riguarda la fascia di ottimisti, salita di 4 punti percentuali. Più nel dettaglio, il 43% si attende ulteriori rialzi, mentre per il 40% i listini resteranno stabili. Per il rimanente 17% sono possibili ribassi compresi tra il 3 e il 10%. Nessun operatore ritiene invece possibili flessioni di entità maggiore. La corsa dell'euro, in rialzo di circa il 13% da inizio anno, non preoccupa più di tanto, anche perché per 7 operatori su 10 l'euro si stabilizzerà o arretrerà nei prossimi mesi. Non ci sono quindi particolari timori per l'impatto sull'economia italiana. gli operatori sono convinti che il mercato dei cambi troverà presto un nuovo equilibrio e per ora l'impatto prodotto dal rafforzamento dell'euro sulle esportazioni di Made in Italy è stato limitato. Lo spread, ossia il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali tedeschi e italiani, non dovrebbe discostarsi troppo dai valori attuali e oscillare tra i 150 e i 175 punti per il 53% degli intervistati. Il 21% ritiene possibile una discesa fra i 100 e i 150 punti e qualcuno ipotizza un ritorno storico sotto la soglia dei 100 punti. Sul fronte opposto, solo il 17% si attende una risalita fra i 175 e i 200 punti. Molto dipenderà ovviamente da quanto decideranno in autunno le due principali banche centrali del mondo. Se negli Stati Uniti la politica dei tassi zero è ormai stata abbandonata, in Europa la BCE è alle prese con il difficile compito di comunicare ai mercati nel modo meno traumatico possibile un possibile rallentamento del programma di acquisto titoli. E dopo il traffico continuiamo a parlarne e vedere se poi, al di là del sondaggio, i singoli ospiti di Cernobbio si riconoscono in questo sondaggio. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Quindi sempre in diretta per questa prima giornata di lavori del workshop Ambrosetti a Cernobbio, tempo permettendo, come sentite, diciamo il tempo non è clemente ed è la variabile più negativa e non è una variabile economica in questo periodo, perché di variabili economiche, come abbiamo raccontato lungo tutta la settimana, le variabili economiche invece non dico che volgano il bello per non essere accusato di ottimismo, ma hanno dato dei segnali, usando la metafora meteorologica, di variabile verso il sereno, dato sul PIL, dato anche sulla fiducia dei consumatori, delle imprese italiane ed europee, e ieri un dato da leggere, l'abbiamo fatto, sull'occupazione che complessivamente tocca un massimo dal 2008, in realtà poi si concentra questo molto sugli over 50 e molto poco, per non dire nulla, sui 35-44 anni e anche sulla parte giovanile. Il tutto in uno scenario, come prima ricordavamo, in cui non dovrebbero andare storte molte cose, ma se dovessero andare storte arriverebbero comunque dall'estero. Ne vorrei parlare con la presidente del gruppo Eni, Emma Marcegaglia. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Perché è chiaro che Eni è, lo dico senza far torto a altri gruppi italiani, almeno dimensionalmente il gruppo più proiettato sui mercati esteri e che ha le maggiori percezioni dell'andamento della cosiddetta congiuntura, che si lega necessariamente ai prezzi del petrolio. Abbiamo visto una tensione forte poi rientrata dopo il lancio dei missili nordcoreani, e resta aperta, per quanto sul fronte immigrati e il numero di immigrati si sia notevolmente ridotta, tutta la questione libica. E lo scenario che voi vedete a livello di congiuntura mondiale, che poi è il tema di questa prima giornata dei lavori, è uno scenario di un variabile che tende al sereno, ma con qualche possibile, diciamo, accenno temporalesco o no, per restare sulla meteorologia? Ma direi che variabile verso sereno c'è, una crescita mondiale stimata al 3,5%, anche diciamo paesi che in passato hanno avuto problemi in termini di crescita addirittura negative oggi vanno un pochettino meglio, penso al Brasile, penso alla Russia, penso ad altri. Anche l'Europa cresce al 2,2%. L'Italia, nonostante ancora, questo va sottolineato, sia il paese che cresce meno in Europa, da un 1% ha già una crescita acquisita dell'1,2%, probabilmente, come diceva lei, potrebbe andare all'1,5%, quindi crescono le esportazioni, crescono i consumi, stiamo tornando a un po' di investimenti privati, no? Soprattutto anche grazie, direi, a Industria 4.0, iperammortamento, superammortamento. Questa è anche la dimostrazione che le imprese italiane rispondono quando ci sono strumenti, diciamo, di politica industriale seri, incentivi automatici, no? che aiutano e supportano l'innovazione. Quindi, come dire, lo scenario secondo me è migliore del passato. Anche qui c'è stato un sondaggio tra gli imprenditori presenti, quasi tutti vedono l'anno prossimo migliore di quest'anno. Quindi il clima è migliore. Ribadisco però, non dobbiamo sederci su questa cosa in Italia, perché siamo ancora il paese che cresce meno e abbiamo, come diceva lei, un tasso di disoccupazione giovanile. Comunque è vero che sono formati alcuni posti di lavoro, ma ancora molto molto alto, tra i peggiori in Europa. E quanto le diceva, come ricordavamo in apertura, si inserisce anche oggi nel dato Istat sull'indice PMI della manifattura, i massimi dal 2011, e a un secondo trimestre che conferma una crescita acquisita. Lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, crescita acquisita vuol dire che per ora abbiamo fatto l'1,2%, ossia se non crescessimo più nei prossimi trimestri, cosa obiettivamente difficile che nessuno si augura, soprattutto avremo comunque una crescita dell'1,2%, ecco da lì addirittura la proiezione di un 1,5% che se dovesse essere confermato, beh, cambierebbe anche lo scenario di un'Italia che cresce, andremo quasi in media europea e sarebbe oggettivamente una delle prime volte negli ultimi anni a memoria d'uomo. Restiamo sul fronte internazionale però, perché come abbiamo visto anche con una fiammata, diciamo, martedì, però le tensioni internazionali hanno ripercussioni immediate sul prezzo del petrolio. L'amministratore delegato dell'Anide Scalzi ha chiarito in varie occasioni quelle che sono i vostri punti di attenzione, le vostre previsioni. Al di là, diciamo, del rapporto Pyongyang-Washington, che risulta incomprensibile, più noi abbiamo un problema con la Libia. L'ENI in Libia è un caposaldo della presenza italiana, garantisce, lo dico, l'approvvigionamento energetico italiano fondamentale, non solo italiano ma in primo luogo quello italiano, attraverso il gasdotto che non è stato toccato mai e che continua a funzionare. Quali sono le prospettive che voi vedete sulla stabilizzazione del paese? Ma intanto, come ricordava, noi siamo l'azienda più importante in Libia. Ci tengo anche a dire che siamo il primo gruppo mondiale petrolifero in Africa, siamo presenti in 15 paesi africani. Per noi la Libia è molto importante, è il primo paese, anche in questi anni difficili noi abbiamo sempre mantenuto una produzione oltre 300.000 barili al giorno, anche di più. Uno dei motivi per cui siamo ancora in una posizione buona in termini di produzione è perché, a differenza delle altre compagnie, buona parte del nostro gas va ad alimentare, come dire, va ai libici, no? Quindi noi esportiamo sì una parte, ma la stragrande maggioranza di quello che produciamo in Libia rimane in Libia, no? E questo è un tema importante. Siamo molto impegnati anche in investimenti sulla parte, diciamo, sicurezza, sulla parte ospedaliera, sulla parte scolastica, quindi è nella nostra cultura questo tema, che poi alla fine, se si vuole affrontare nel lungo periodo il tema dell'immigrazione, bisogna creare sviluppo, bisogna creare, come dire, le condizioni per cui la gente, soprattutto i giovani, vedono una speranza e decidono di rimanere in questi paesi. Quindi chiaramente per noi la Libia è molto importante, c'è una situazione politica tesa, noi lo diciamo sempre, bisogna fare attenzione che l'Europa, i singoli diversi paesi europei spesso parteggiano uno per una parte, uno per l'altra, e questo invece di aiutare una soluzione complica la situazione. Quindi la nostra idea è che serve una Libia, come dire, unita, e che bisogna aiutare questo processo di unificazione. Una Libia separata è destinata a creare molti, molti problemi. Quindi da questo punto di vista noi siamo molto attenti, siamo pronti a collaborare. Mi sembra che le scelte che ha fatto il governo italiano e il Viminale in particolare sull'immigrazione sono scelte che almeno io personalmente ritengo molto giuste. Questa è la strada corretta. Siamo stati anche finalmente, come dire, lodati, ed è stato riconosciuto il nostro ruolo anche dall'Europa, dalla Germania e anche dalla Francia. Ecco, l'importante è che adesso alle parole seguano i fatti e che si vada veramente a supportare quello che l'Italia sta facendo in Libia. Vorrei chiudere su questo, perché non sfugge a nessuno, l'hanno detto anche ai nostri microfoni l'ex ministro Giulio Tremonti e anche un economista come Giulio Sapelli, che voi conoscete bene perché ha un ruolo importante nella Fondazione ENI. In Libia si è sicuramente giocata una partita anche per timore, questo, non dico spodestare ma ridurre il ruolo dell'ENI in Libia, che noi eravamo, insomma, e non è un mistero che molti puntino l'indice sulla Francia e anche sul ruolo delle corporate americane. Temete che questo possa essere l'obiettivo di fondo, o diciamo sono in qualche modo ragionamenti geopolitici, ma che che vogliono o troppo alti o troppo distanti per voi? Noi abbiamo ovviamente i piedi molto per terra e ovviamente stiamo molto attenti a quello che succede. È evidente che la Libia potenzialmente ha una capacità di produzione di petrolio e di gas straordinariamente alta, non sfruttata per quello che è successo in questi anni, e quindi è evidente che ci sono molti paesi e molte compagnie che vorrebbero avere un ruolo lì. Noi per tutelarci, quello che facciamo è cercare di fare al meglio il nostro lavoro, è quello di continuare a investire anche sulle popolazioni, come dicevo prima, dandogli accesso all'energia, investendo sulla sanità e sul resto. E anche il nostro governo, onestamente, ci sembra che stia facendo le cose giuste, e quindi avere anche un governo italiano che lavora per un appacificamento della Libia, e su questo tema dei migranti ha preso una posizione ed è proattiva, ci sembra una cosa positiva. Quindi probabilmente ci sono delle interessi, cerchiamo di tutelare facendo bene il nostro lavoro e mantenendo un rapporto molto forte con la nostra diplomazia italiana. Un'ultima domanda vera, nel senso che qui la faccio più all'ex presidente di Confindustria oltre che al presidente dell'ENI. L'attuale presidente Vincenzo Boccia ha chiesto dal meeting che sarà ospite a Cernobbio domenica mattina, sabato lo ricordo, il premier Gentiloni, poi altri ministri, Carlo Calenda, il ministro Poletti, li abbiamo già ricordati prima, ma dicevo, dal meeting di Rimini il presidente di Confindustria Boccia ha chiesto al governo di non essere timido sulle iniziative pro crescita dell'occupazione, non crescita in senso stretto dell'economia, e di mettere sul piatto almeno 10 miliardi. Al di là della cifra, lei condivide questo appello, insomma, alla non timidezza in un momento in cui oggettivamente c'è un abbrivio di ripresa economica? Sì, io lo condivido. È chiaro che l'Italia ha un debito alto, quindi bisogna ha dei limiti e ha degli impegni presi con l'Europa che vanno rispettati. Però sono assolutamente convinta intanto che in una situazione di questo tipo, dove le risorse comunque non sono infinite, bisogna focalizzare sulla cosa più importante, e a me sembra che la disoccupazione giovanile sia il tema più importante. E sono d'accordo che in un momento in cui comunque l'economia sta un po' accelerando bisogna mettere più risorse possibili, quindi io sono sostanzialmente d'accordo con Vincenzo Boccia. Allora vedremo poi quale sarà la presa di posizione del premier Gentiloni del sabato pomeriggio, chiaramente da Cernobbio, e poi domenica mattina invece una tavola rotonda a cui parteciperà anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia. Grazie intanto al presidente dell'ENI Emma Marcegaglia. Grazie molto. Allora andiamo veramente sulla chiusura, e devo dire che per chiudere sulla metafora meteorologica con cui abbiamo aperto, almeno il tempo ci ha salvato. Domani altri aggiornamenti qui da Workshop Ambrosetti, ci sarà l'inviato della Radio24 Simone Spezia e appunto ricordo i vari commissari europei, il commissario Michel Barnier che tratta per la Brexit e l'intervento nel pomeriggio del premier Paolo Gentiloni. Intanto da Sebastiano Berigioni lo auguro una buona serata e un buon fine settimana a tutti voi in ascolto, a partire da chi lo dovrà passare lavorando. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi, e lunedì torna tutta la programmazione regolare di Radio 24 anche con le novità del nuovo palinsesto. Radio 24, libera la voglia di fare.